Tu pensa che sono nato in una stazione di Santa Maria, ma te lo conto. Allora ce ne sono rimasti pochi davvero? Allora, da dove te la cinco lì tu? Da teleportatore? Da che la vedo trattavo, la sopo e taglio da lì. Cazzo, tiro lungo, Maria. Ma perché? Sono qua, latte dolce. Fai lì, latte dolce, no? Viene portatore, latte dolce. E stai andando. Ehi, stiamo per... che di solito passo da là. Però devo fare due semafori qua. Vabbè che ne faccio lo stesso, le semafori. Maria, quelli, fai quelli e poi è tranquilla. Di là sono le 20:50, ci sono i cagacacchi. E i semafori che lo sai come sono. Se ti lancio un pochino da voi. Ma dice che io le cose avevo montato la macchina, capita, vero? Sì. Ah, non l'ho fatto capo vedere dove cacchio è questa macchinetta. Sì, che lì 20:50 lo devi rispettare. Andà bene. Ciao Maria. Saltoni, buona giornatina e se coincide a stasera. E lì va, dopo devo andare lì. Su quella montagna dietro la tua signora, dove lavora la tua signora, capito? Per quello che te l'ho detto, se coincide dopo. Siamo, allora dai. Ti saluto Giova. Ciao anche a te Igor, certo sicuramente sarei quasi arrivato. Ciao, ciao a tutti e due, fatevi buon proseguo e tutto alle migliori, ciao. Ciao, ciao. Ciao Igor, ciao, ciao, ciao. Magari con te Igor coincide la... il ritorno. Ma al ritorno sono sbaraccato perché devo lasciare questa in officina e me ne danno un'altra qualche giorno. Ah, e quindi niente, io va bene. Allora ti saluto. A dopo, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Io perché dove sono? Sono su 10, dove sono? Buongiorno comunque. Se ne ho già ne mangio, se non mi fanno fare un tiro di favola e me mandano via. Come Santiago non sei alto, sei un po' basso, Ah, tu sei male, sai. Santiago sì, perché la radio già è buona, va. Non è forte forte, ma già è buona. E allora non ti puoi lamentare, allora va bene, certo. Allora va bene, se ti copio vuol dire che va benissimo. Io questo c'è più basso. ecco, allora va bene, va bene. Va bene, va bene, e cosa vuoi pretendere? Non portate il contenuto suo. È anche troppo. Ehi, qui a cavalletta, mio, caro caro. Buongiorno. Ok? Giulio. E spingi la porta se c'è in mano, che non ti scappi, suona con lei. Forse. Quanto è domani? Come sono chiesto? 9:12 la radio è buonissima. E controllo tutti alla neuro. Buongiorno. Pelato, ciao Gian Maria. Popolio, i controlli alla neuro. Sì, sai da chi sa da sta mai. Non ho capito, io devo mangiare, sto già cucinando la carnina. Ah, è vero, è stato dove si cucina. No, è la una. Ciuciu. E la luta? Scende la pioggia. E noi la lasciamo scendere. Dove la massa? Ah no, fatto per dire. Ciao, ciao Luca. Ciao a tutti. Ciao Gerolamo Manolo. Bene, bene, piove, piove. Meglio che piova. Ehi, ero un po' a mal di schiena e me ne sono scappato. Ho detto, lui intanto non c'è il principale che mi sta controllando e me ne scappò un pochettino prima. Niente, e poi ci ripigliare tre là. Beh, diciamo che uno mangia quando ne ha fame, però ne mangia pure quando ne ha, Perché se non ne ha si fa un giro di tavolo. Sei d'accordo, Dollaro? Buongiorno, anche a te. Si fa un giro di microfono di tavola. Ehi, già va bene, lo stesso, sempre un giro, è paglietta. Oh, iaia, per carità. Cosa ci vogliamo fare? Gian Maria, riprenditela. Ok, buongiorno Mario. Buona giornata anche a te. Mi state parlando di fame, di mangiare, cos'è? Gira gira, mi sto facendo vedere l'acqua lì e tocca mangiare anch'io, va. Ah, ti dico tu. Fatti un giro di tavolo, ti fai la Dollaro. Boh, diglielo Mario, diglielo. Me, adesso Dollaro uscite di tavola ne fa tanti, E quando la destra, quando la sinistra, ci gira tutto il giorno intorno al tavolo, vero Dollaro? Cappagappa, e poi se ne grosso non c'è pericolo che lo sbagli. Cappagappa, e al limite ne le potrebbe uscire qualche lasciarita, così. E mettetevi d'accordo, ma no. Ma come la rovedi, Giulio? Fame. Ciao a tutti, buon pranzo a tutti, Buon proseguimento di giornata. Riprenderà Luca. Ciao, ciao Giovanni, alle bruciole, ciao, buona carica, buon tutto alle bruciole, avanti, buon poco. Vai Mario. Ciao Giovanni, tutto alle bruciole, là. Buona carica e saluto il terreno, ce la risentiamo, ciao ciao. Cappagappa, ciao, forse però anche a te. Buona carica, quando la fai ce la risentiamo alle bruciole. Buon poco, riprenditela. Ciu-ciu-ciu-ciu-ciu. Mario. Luca. Ma ne va? Va andai tu. E non si è che mi ha detto la verba, lo. Ha chiuso l'acqua. Le bottiglie. Cosa bottiglie? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Io la sto passando, Eppure a noi gli davano staccata pure le luci. Stavagava. E va bene. Scusa, che era solo che avevo un cane, che era anche no, c'è un vacca. Il cane nero era un buono che si chiamava la fila. Marca, è una marca va. Ma il cane. Aspetta, che io stavo cercando un cane, come ricordare? Un cane. Cazzo, non lo ricordo adesso. Che era di Sandy? Ma piccolo è. Sì, ma tu, ma due e mano, che tu metti, nulla, non c'è quello due metti, no? Ah, un e mezzo, non me lo ricordo che mi ha chiesto un cane per campagna, non me lo ricordo, fammi fare memoria, non me lo ricordo, due me lo pigli a due, ma posso o meno, cazzo ci si chiudi con la mela, a me è un cane in mamma. Una cosa c'è un cane, non ci sono cane a fare, cose, solo quello che si fa. Cinesia, ma che cane è? Non mi ricordo più. Un alano, cavolo, è puro. No, tanto non lo ricordo, ma l'ho chiesto uno per campagna, ma non mi ricordo chi. Sto facendo memoria, ma... No, mi ha messo blu, era blu, eh. No, non lo ricordo, ma l'ho chiesto uno. Se l'avevo detto, c'aveva un amico. Ma se parlavo sempre, lo dico, ma c'era una ragazza, perché c'era il valico in casa, stava andando. Ora non mi ricordo chi me l'ha chiesto, quello. Adesso vedo di fare memoria e poi lo faccio sapere. Luca, non ti preoccupare, intanto io è un cane di lui sulla gomma di lui sui tre denti. Ah, Lucia. Che bastardo, eh? Ma non c'è bene. Chi è? Chi è tu? Parlate bene. Parlate bene. Tanto. Ciao a tutti. Ma che poco il colore a te? Ma che ti ha pomponio? Ma cosa dico oggi, compreso? Sei il pompo? Sta un po' dietro. Se adesso va un coso, una lampada, non lo so. Non so se lo guardo da finale. Sì, c'è la mamma messa a finale. A te o a te? No, ma a finale, no. C'è la caldaglia. Laboratorio c'è anche. No, a casa. Boh, scendiamo un bel basso, cioè. Lo so. Ti conosco. Ah, no. Ma che cosa ti conosco? Guarda, l'Inter, con quello che fa Luca. Cos'è lo l'Inter? Non so più l'Inter. La Mobicom, cioè. No, l'Inter che è con quello... che fa cosa fa l'aria. Ma quello che stai usando? No, non so più quello lì. Siamo a Luisa adesso. Io sì, sì, sì, come ho fatto la pubblicità, mi guarda la scuola. Ciao Riserva, buongiorno, ben entrato. Scusatemi, ma io se ne stanno a pappare. Sì, ciao Mario, buon pranzo, ben lasciato di loro. E come mi vedi la bambina, se la metto nel piatto. Sì, no, se ci vuole tanto di sì, perché ho detto il coso che fa voi. Quando fa casa, la casa tua, è possibile che è l'ago del rosmeto non si muove. Sì, che così, il rame non si muove. Ma non si muove, nulla, non si muove niente, nulla. L'unica cosa è quando vado a mangiare a fondo scala, no? Mi si inchioda 1-1, mi si inchioda. C'è un colpettino e scende, normale. Tu prova ad andare in qualche altro canale, più basso o più alto, non è che si muove. Cappa, ma aspetta. Hai saletto, poco a poco si muove. E ora se lasci che scuoti di molto. Andrai, amuto, no! Vai su, su, si muove. Se te ne vai giù, giù, si muove lo stesso. Sì, si ma sotto, sotto, tanto già sale, 1-2, 1-3. Bianco, bianco, bianco. K, che è un'altra avanti? Sto uscendo, chi si? Ma stai uscendo? Ma mi vedi che sto uscendo? Sto facendo un bel basso, direi, chi si? Kappa, kappa. Vendo, vendo, coppa, coppa, vendo, vendo, vendo, vendo, vendo, vendo, vendo, niente, non vendo niente. Vendo, vendo, stasicioli, nasi il culo, mica buona. Alasa yoga bella. Attenzione Gianni, doppio room, cambio. Vabbè, sono l'una meno 10 appena. Antonello, Pupurio. Antone. Ma ci devo di presto Mario, da lavorare. Ero stanco, non ne avevo più quello e me ne sono scappato. Ah, così è. Hai fatto bene, più che bene, kappa kappa. Kappa kappa kappa. E cioè quando esco più tardi, me ne darò in più forse, e allora? Ah, tu più ne vivi meglio è. A te no però. Ma io anche voi se mi sono messo pure prima. Me l'ha detto il vicino che mi stesse al calcino. Ma poperano. Me l'ha detto Giovanna che mi stesse alla mutanda. Ma poperano. A te. Attenzione, ci credi di mangiare i bedini. No, a te non va a lucare in casa, domani di mangiare i bedini, saluti. Ah, siamo bene. No, mamma c'ho femmina. Ah, sta attento, buona di mangiare di lamiera. Cazzo, non mi ricordo chi me l'ha chiesto, porco buia. Poi ha un ottino, non so se lo sta dando. Vabbè, c'è la campagna, ma lo vuole dare. Non mi ricordo che cazzo l'ha detto, non mi ricordo. Tu non hai posto in campagna, Giulio? Tu non c'è stato un cane col microchip già. Per carità. Mario, ma te la mangiamo la faccia asciutta? Troppo collo! Troppo collo? Troppo collo capo? Beh, c'è adesso, credo che ci come in Dio mangia bene queste notte. Ah, che schifo. Alto! Ma facciamo cambio? Come vuoi? Bene, te lo... Un tocco di capo collo! E tu mi porti una pezza di melanzone? Guarda che forse di quel melanzone però fa antica, visto che vai a mangiare un chisto, non è una melanzone più gelato. Praticamente se la rimani, Sì, allora. No. Ma rimane un momento, ma cosa ci mangiate? Cappa, cappa. Vabbè, ma si è combinato io, tu, niente? No, io e li prendiamo. No, già va bene. Cappa, cappa. Lunedì mattina, che prende? Un altro, mi ha detto che pensa, non so sicuro, però penso che in 10 giorni riuscirà a finire tutto. Però mi ha detto non te lo posso garantire, se non sono 10 mi ha detto sono 15. E vabbè, da solo Penso di sì, non lo so. Tu se si porterà qualcuno si allaga. Io ho fatto un prezzo, io ho un prezzo da fuori. Non mi viene più nel 50, a me non me la potevo. Sì, no, vabbè, se no, si può fare in 10 giorni. Non penso che sarà solo, non credo, oppure magari di quelli che lavora da solo, ce ne sono un bel. Guarda, Luca, non è che ci sia rimasto molto meglio a fare. C'è da aprire quel con l'altra terra e iniziare a pavimentare. E poi c'è da fare il bagno, ma il bagno ogni giorno ce lo rifacca, domani inizia a placcare, a pavimentare, non è che ci voglia molto. Ma quello già è vero, non ci vuole molto. Kappa. Ma quei mattoni che abbiamo preso la campagna ti bastano tanto? Ma ce ne sono fatte le mattoni, tu ne hai preso 10 scappe, noi abbiamo preso anche 40. Ah. Anche 45, perché avevi tutto 55. Cazzo. Ah, ma già su sono allora? Sono in cantina. Mi ho portato due viaggi io, tre viaggi io da 13 scatole, un viaggio mi ha riportato con la macchina sua di 7 scatole, tutto quello che ho portato su. Ma di qui se non vissi il mattone, non credo che ce la fa a fare tutto. Kappa. E lì. Vabbè, poi la rimanenza la lasci in magazzino. Beh, la rimanenza la lascio lì. Ok. Io sono aspettato una casa, un mazzone, a parte ballare. Sei tu il giornale, Giulio, Gnort, lo conosci? A Gnort. Giulio, ma chi sei così basso? Sì, mi ha mandato una volta, me. Beckenbauer. Io sono quasi a una rifugia e non mi si vento. R. Ok, un attimo di bianco per me, cazzo di auro, va bene. Ciao Giù, ciao ci sentiamo le prossime, ciao va. R, capriano bianco per me, R. E ma me lo ricordo, minimo 10 anni fa, e forse di più anche. Un attimo però. Ma c'è cielo grigio, ma popeano. Sono tuo valigino che ti stessa al calzino, ma popeano. Invece vado in trude, che ogni cosa si scude. Ma la parasera, siamo onde, tanto. Antonio Beckenbauer. Ma mica per lui cosa vuoi dire? Guarda, giusta buccia, non sarà un fata. Ma è possibile, la fatica muro, la sorella. Cristian, ce la butto io. Ma, non la vado a pigliarla. La posso io, la vado dietro. Sotto il culo fino al ginocchio, siete due legate. Certo. Ma lui c'è le gioca. Sempre manca zona, chissà. Uno due, ce l'avevano due prima. Uno gliel'hanno tolto, quello del tremore. E mi stava facendo assolto. Non credo. Uno gliel'hanno tolto. E gli altri sono rimasti. Non vorrei. L'incidente è morto che hanno avuto sono forse 12 anni fa. Colpa sua era? No, una macchina l'ha presa in piedi. Allora l'hanno risarcito. E mi sembra che gli avevano dato 25-28 milioni. Poi ha avuto un altro ancora, si è aperti e gli avevano dato 9 milioni. Che era il tutto un piede, l'hanno creato anche al piede. Per carità. Sì, ti ha detto che la pentola, se no qua. Gli occhi non mancano. Ma qua ne hai tu? Io ce l'ho perché? Oh, qua non c'è. No, ce l'ho io. Kappa. Un attimo. Hola. Bonsoir. Anzi, buongiorno. Buongiorno. Luca, non sto uscendo in radio. Bene, bene. Benissimo. Luca, io non lo segreto per avere sempre l'acqua. Eh? Basta fare la bolletta. Ma sai? Ho detto, basta fare la bolletta, lei va a vedere sempre. Ah, così è. Allora. Avanti già. Sì, buongiorno a tutti, dai. Io rientro, avanti. Ehi, rientrando sì, Kappa. Ma che c'è da lì? Che ha detto? Buongiorno a tutti, buono, ho capito. Poi c'è Roberto anche. E di noi non mi ha conosciuto il suo figlio. Maria Antonio, allucinante. Ma va. Ehi, Antonio mi sembrava che prima. Guarda, aspetta un attimo, fate segnare più forte. Che lui dice il gioco? No. Tu sei più bello. Ah, è un bello. Un bel nome. Ah, è scintilla. Ma lui quanto? Santiago, se lo è basso. E chi? Amico della trucca. Ah, bisogna andare lui là. Che sta parlando? Tutti la trucca stanno andando. Buongiorno. Ho visto la tarico questa mattina. Fatto bianco. Ah, si è chiuso tutto. Si è parato. Ah, dove all'aria non me lo bianco, qui non è più entrato, vuol dire piazzuta. Sta all'aria ancora. Buongiorno Salvatore. Luca, buongiorno a tutti. A tutti i miei ci sono anche la Cucca. Però mi piace un camionista un po' maleducato, rompere le scatole. Scusate, si è fermato lì, dove c'è l'asino, Rava. Calma, dove c'è tutto. Ok, va. Ciao ma, ciao Gianni! Ciao Salvatore! Mi hai sentito, Ciao Altra! Ma io ho chiamato ancora niente, devo richiamare stasera per quella cosa. Ciao Natalie, e beh, il briciolo è passato? Insomma, così ancora non è tutto, ma ci siamo confuso. E andavamo per l'immagine che è andato uno al posto mio da quello della Crucca, è andata a passeare la supposta e io non me la sono potuta prendere, ce l'ho presa lui, Visto lei, Mario ti voleva mettere la cremina, Mario, la cremina ci voleva. E allora, così ci vuole meglio. Nel vedere l'acqua fresca. A Tarì, ringosta, fatti circolanzano. Circolanzano, lui ha compreso, ma senti. Salvatore, dimmi già. Stasera a passo verso le 5:10, dai, fammi trovare. Ci sono sempre io. Non mi muovo. No, così stasera per fare tutto. Sì, a Roberto, invece. Ah, sempre in giro il tuo meccanico. Mamma mia, sempre in giro. Salvatore, così mi metti le corna con Gianni. Sì. Se ne approfitti, per forza, cara, tu sei indisposto, cara, non si può, vero Mario? È tutto acciaccato, è una carina, un affitto, tutto acciaccato, e quindi non va bene, vero Salvatore? Cos'è? Sei indisposto, ragazzo, ma cosa bisogna fare, ma? Una pompata davanti, una pompata dietro, già sta andando via. Però davanti non sono indisposto, no? Come io quando ti trovo. Già lo sa, la frisa giallo. E allora, diglielo. Ma ti immaginati, i puttetti, so. Vai a mirarci a dai. Ci vediamo una volta passata. Uia, uia. Robbe, dove stai andando? Dove è qua? Ma non lo so. Comunque ho visto Mario, avevo ragione, l'incendio a Platamona. Davvero? Cazzo, c'è prima pagina sulla ruota. Non so chi c'entra se ne sono bruciati. Ma dove Platamona? Da dove c'è? Dove c'è? Dove c'è il cannetto? Nello stagno! Ah, cappa. Cappa, cappa. Ma lì dice che non c'è un fuoco quello... lo usano come un bar d'estate lì a Platamona di quanti cavoli si chiama? di la gazzosa, lo conosce la gazzosa o Salvato? Che capo, anzi quello che c'è anche il campo di calcio a 5 andato... sì, ma quello non è sulla finestra, quello è sulla sabbia, sulla spiaggia prima dell'ex Midoide l'hanno fatto, in fondo l'hanno fatto Luca. E poi ho trovato questo tipo che se ne stava attaccando col tubo del rame, no, sgamata da Riccardo. Sì, capo, però era uno sciaccato, non era più niente. Ma non l'ho visto come gli hanno le No, no, no, no, no. visto, ma stavo raccontando il suo al bar. Sì, sì, sì, E cosa spingi? Non cambia balanzi, la massa. E allora chiama la baracchina come ho fatto io ieri, nella salita lì a Nondò, a Patata. Tutto curvo, ragazzi, quando è arrivato la cosa, ma avete, ma è finito lì. Allora non dico tu che ti chiami di sottofissati. No, beh, attacca e butta la centralina. Adesso quasi quasi vi faccio. Beh, una cosa ve la consiglio. Arrivando a stampa c'è la te, il segnale. Già ci vuole il segnale, la massa in varia. Quanto è? 3.5 o 4? Sì, 9, sì. Va bene. Sono quasi arrivata alla valle. A casa tua arrivi 9.15, poi ti fanno a casa tua. Sì, la farò distanza che sono, fa più che bene. Diciamo che, vabbè, problemi non ne ha, ti fa sentire. Ti fa sentire da tre parti. Vabbè, sì, Gianni! Oh, io Robello, dove sei? Bene, mi senti anche Gianni. Ti sento piccolino, ti sento. Sono qua la tenolce, ma sto sentendo la negativa. E cosa ci fai alla tenolce? Io, cammina, vai via. Sai, per venire alla tenolce ci vuole il passaporto. E a chi lo padrone, zitto? Anche compreso. Comunque c'è il passaggio e basta. Non mi fermo lì, non mi piace la zona. Dani, guarda, il sento il buco, io anche qui. Lascia di là, così non è più un movimento, No, di là qui anche vengo. E metta per la risalirsi domani sotto la cura. Ma tu stai a fare un attimo di cocaina, domani si trova la cura, no? Ah, roba di farina, vabbè. Io già. Già sono come io, già, una massa asciutta al volo. Ho preso le gare sul magazzino. Ah no, oh yeah, nulla, la Sardegna in fiore. Mi chiama Entino che mi sa calzino. Ma Pappaiano! Hai visto la pubblicità, Gianni? Eia, come mi senti, Luca? Bene, già, dove senti, sì. Cappa. Sto rientrando, là. Non avevo voglia di andare, ma mi tocca andare lo stesso perché... Mia moglie sta facendo altro, sta cucinando, facendo, quindi non posso farla mollare. Vado là. Andrò a te, se la si può fare. Pappagappa. Dove siete? Buddo, luci gialle. Buddo. Ma, chilometro. Dove ci facevamo la gara con i vestiti. Ma, perché là è fino che mi sei dal calcino. Ma la notte no. Io sto trovando qualche caffè. Ma già mangiato, Mario? Ah, mi sono mangiato un po' questa cacciutta e tre bistecche di capocollo. E Mario si è andato. Cosa vuoi mangiarti allora? Hai mangiato un bel... Adesso mi devo fare caffè. Oh, la massa caffè? La massa caffè, e tu se la butti da noi? Lei non gliela bevo io, no? Ma quello non è bello, a me me l'avevano regalata e l'ho regalata come me l'hanno data, l'ho data. Capito? Qua sta costruita a prendere un po' di agnelli e me l'hanno regalata e pastoni, ma a tutti i costi hanno voluto la mattina per stare otto e stavo mangiando salsiccia, formaggio, c'era acqua vite e vino a tavola. Ma non si è andato male, no? Allora, quando vado a costruire non me l'hanno mai niente, ho detto che ti gli musi. Ma io a costruire sono ben voluto, la picco. Perché? Sul mio cognato che è uno dei maggiori possidenti di terreno lì, quindi mi conosco tutti. Perché il tuo cognato di costruire? Ame a terreni, a questo e all'altro. Quindi c'è sempre i pastori, loro sono molto riconosciuti anche con i parenti. Ah, cappagappa. Allora, qualche giorno ci andiamo assieme a questo vino. Magari li conosco pure. Io li conosco tutti, quelli che hanno la macelleria, quelli che hanno le reti alimentari, li conosco tutti. No, io non li conosco. A me che io quando vado consegno e poesia. capito? Però conosco qualche luogo lì a Questolina, là. E anche a Porto Maggiore, perché andavo l'anno scorso a prendere il formaggio, quindi quelli della fabbrica mi conoscono tutti. Ah, capolotta. Allora bene, ma io conosco quello che c'ha l'imbrezione lì nella valle, come dice da questo lì a destra. Diciamo così, un mezzo parente allora, vabbè. Sì, vabbè, io. Bene o male, a me mi conoscono tutti, ma io non è che conosciamo per niente. Sono loro che conoscono a me, perché sanno che sono il cognato, quindi mi trattano bene. Dai, comunque avevo regalato un bel bottone di acqua mista. Ma se mi viaggio se lo bevo, se lo bevo viaggio questo qui mi trovavo secchito. Ecco, ragazza. È così, Sto buttando il compito in viaggio, è tribati. Ne ho gustato un bicchierino lì, guarda, ma ha conculato. No, ha conculato, non sta sorpreso, ma io te l'ho a garra, a faccia. Cappa. Ti ha conculato, sì, perché adesso mi ha convuoto. Tu pensi che dalle 8 di mattina loro stavano mangiando formaggio, salsiccia e vino, acqua vite, di tutto va via in banca. Anche il buongiorno si vede al mattino. Ma di Franco, come ogni tanto si fa sentire. Buongiorno Franco. Come fra? E allora? Ma sei un gimbatto? Forse della la scala. Mi ha messo sotto la sedia. Ma fra, ma come ce l'hai fatta, vorrai? Fra. Franco. Non fai tua. Le sette sono accesi sotto. Locca! No. È muto questo malacchino, Mario. Sordo muto. Sì, già va bene, là. Stanno arrivando forti questi qua. Adesso non so se è qualche radio che sta picciando fuori o che cosa, boh. Mambo, non lo so. Cappagappa. Vani! Eia, sto cercando il parcheggio per andare da Marco, ma mi pare che non vi nego. Ma tanto può fare il giro? È vero Luca, c'hai ragione anche tu. Ma senta, non ce n'è parcheggio dentro la scuola? Non ce n'è, no, c'è il cortile dove c'è la scuola e poi c'è la scuola. Oh, capito, ma cavolo, rimane la scuola. Ma che ho sbagliato io, mi sa che sono tutto il centro. Ma dove sei? Io sono nella sala del Brocco, Sì, il Brocco, perché sono gli amici di mia moglie. Ah no. Ma se no vengo lì se ne ti aiuto lì. Ma non so quello che devo dire, tu hai la camicia. No. Credete ancora se io non ho bisogno di cannuccia. No, ma come devo dire ancora io. Ma io ho capito, come hai fatto a mangiare il minestrone? Paccarità, ragazzi, è quella schifosa. Oh, farà bene, tutto quello che volete, ma non si vada. Manco con il tuo lavandino. Ma a me piace proprio. Ah, vedo, specialmente se hai fatto come te di cui io mi ho messo il raso, la gomata secca, il miso, che sarà rotosari, mezza messata e la muoio con un'altra marita. Sì, io ci ho messo anche un pezzo di... mi ha fatto per mangiare dentro. Mamma mia. Tu non è mai chiaro. E in chi vi sei morto? Non è mai davanti in chi? No, no, ma era per me. Che se la cosa la fame. Era a me che lì si deve mangiare lì, non è lui. No, non ha mai stato mangiato, è stata più buona, è un dito, poco di sale, buona rete, un palino, si verrà stato un palino, si verrà uscita, da mani. Ma tu sai? Sì, è tipo un tronchetto. Ma tu che sa? Vedi? Parla, ti prendo. Se trovi a Paolino che ti frega il calzino. A Paolino! Thank you. mesi lì. Antonio, come la stai facendo questa minestra? Mi hai detto che sono offeso, sei offeso perché sei salutato che non mi hai risposto. Uno. Offeso, se io sono salutato, sei soltanto tu. Sì, sei soltanto, ma la storia è già, la storia. La storia con tutto, con la signora, anche con la foglia ci sono, tutto. Anche filocchiesi selvatici. Filocchiesi selvatici, un pezzo di lardo di maiale, un pezzo di testa di maiale, fagioli, carote, patate, zucchine, vegano, carota, cosa dicevo? Tutto tanto nel bosco, tutto quello che c'è nel nostro. Hai fatto bene, perché lui è buono, è molto buono. Invece quando è rappreso a me mi piace, quando è un po' raffreddato. Questa è la scelta, lo sento, e a me lo userò i due. Quindi, io se lo mangiavo male, lui non passa perché non si riesce a mangiarlo se non è passato. Già, mi fa senso. Sì, mia sorella è la cugina, mia sorella lo passava a mia madre, lo passa come lui. Invece a me piace di più così, mi piace proprio mangiare le verdure, masticando. No, ma io mi metto, intanto per me, non è che non è questa stessa minestra, non è che metto la minestra, quella, quella un tipo di calendrina che sono stata a mezzaluna. Cappa, cappa. È un po' una bomba da mangiare con il lardo, ma già, se non mangi roba, no, vai per là tu. Scusa, tu, c'è la mia figlia. Stavo dicendo, è una bomba a digerire. Non so, però non ce l'ho io, non ce l'ho niente. Sì, c'è il grasso, quindi così. Infatti, tu non hai fatto il soffritto io. Tu mi fai il soffritto, quindi ma tu no, io non faccio niente. Oh, tutto in crudo io faccio, capito? Tutto in crudo. Ah, quindi il soffritto lo faccio sempre da lui. Tutto in crudo. Quindi io metto tutto in crudo. No, comunque già, io non ho fatto niente. Me lo metto la pasta nel pentolino mio. Me lo faccio con un team. Tu se ne metto un po' di pasta, te la lascio andare, questa cosa non è la cesa, io sono tutti i vicini che già faccio. Ma le verdure quelle sono gelate le hai messe, oppure le preparate tu? No, tutti io ho preso in giù, io vado sempre a prendere, nella prima curva che c'è per andare alla fine, questo se mettono quei ragazzi, sono amici miei, se mettono lì, hanno le campagne e se mettono col chiosco. Io vado via, prendo tutto lì, canotte, sogliano, tranne che di capo e sono preso la campagna di babbo. Ah, già è migliore così la roba, quando è coltivata da chi conosci, da famiglia. Ma io li avevo finiti quando li ho comprati, però li avevo sgranati e mi sono congelato. Però, se tu quando li compri sul gelato tutto. A noi ci siamo arrivati dei cavoli che sembrano cavi di leone, ma manni barò, manni anche tu, una cosa mai vista. Beh, in realtà le campagne non sono più a che galle, perché lì talmente c'è la tanto, perché lì non si può la pallata, i cinesi, ma tu non è che bisogna sempre mangiare, fare i cinesi, e cavolo. Beh, le vandette, scusa. No, non è che non le regalo. Cappa, cappa. Lo so, quando c'è la campagna molte volte io con lo scamici mi dicevano scendi se la fai la frutta, tanto ci sta tutta cadendo, si rovina, di tutto, i ciliegie, le nespole, specialmente pesche di tutti i tipi. Stavo venendo ve l'ho detto, la domenica, e poi mi sembra sempre di approfittarne, hai capito? No, mi dà un po' di fastidio. Vabbè, tu non lo so, le faccio sempre anche lì, le arance, le mandarine, no? E tu li portavi a tutti. Allora se trattavo di danno e fare che mi sbaglio. E da un lui non le capisco. Ah, è che adesso mi connetto qui. Se ne fanno la gente vengono se li prende e se li bigliano. Ma se invece se devono fare loro non ci prende nessuno, allora non li mangia neanche. Perché già quando vuoi scendi, ti dai la gacetta e te li fai. Allora, io mi sono trovato anche, come mai non lo fa, che sono tutti tanti avanti, io non lo vedi con i milioni, con i milioni se non ho conosciuto i milioni di euro. Lo so, è il periodo, come si chiama, dei cacchi, che ha pagato con voi? Il Natalino ne ha un bel po' di piante di cacchi. No, noi i cacchi non ne abbiamo niente, noi abbiamo una pianta, ma ne abbiamo sempre due. No, i cacchi ce li abbiamo giù, non la facciamo. E quelle lì che non le fai subito si sciolgono. Quindi non la fatti, no, ma se mi attacca addirittura mi fa, quando sono ancora mezzo verde, perché mi mette nelle cassette, no, e li faccio finire, perché sennò si lascia in mezzo, vedi? Una luce verde e una luce di terra. Sì, poi se li beccati, li si risucchiano, capito? Ci sono quelli seri che hanno il becco lungo, tipo, io tipo il cardellino, li fanno il buco e si risucchiano. Io così, se non lo la terra, il blanco. Ripeta Lucca. Cosa ripeta Lucca? Sono 30 anni già. Vado in avvamme, anche tu dire che c'è bisogno di mangiare, in avvamme. Sono tutti anche a Platavola. pattuglia sema di negretti, arrivano i pattuglia nuova. Leonardo ti abbiglio, il mio cazzo è figlio. A me Mario, mangiato hai. Luca, Luca, Luca, Luca. Mi andiamo tutti canti a mangiare, ciao. Tu ti sei seduto in mio, sono già caldi. Mamma mia, che sta piovendo, via. Ma ragazza, se figli cari, Luca. Furo è brano, non ti rilassi. Piovendo sta, no. Mi prendire, c'è che ti da cantare, guarda, il diluvio di questa. Vabbè, ora non ti da meglio. Come c'è Isha? Ma così, sono le droghe, le mani. La mattina bigo, la mano mia, la mano mia, ma tu bigo. E ora via, bravo. E no, è una canzone pornografica, questo. Sarando un attimo, tutto un lato mi fosse, mi diletto in la bimbo reggio. Tu sai cosa si va giù. Ma quando mi si dica, cosa cosa si stretta, ma giù va a non è. Ma non è, l'ho fatta. Un gruppo di sotto questa canzone. E poi sono le mani se l'hanno copiata. Ma no, io non ho mai citato nessuno. Sì, ha fatto un gruppo di sorso, cavolo, e tu informati. Ma che ha senso, già mi sono tutti gli italiani dialetto? È uguale al nostro dialetto, già. Ho capito. Ha di compreso. La Gigina va. Ma già non mi ripeto la tridria. Ecco, cos'è la tridria, lo sai? Dridria, la dridria, cavolo, ma no, aspetta, come cazzo manda la dridria? Che cosa, io non lo so. No, ma sai che la dridria, boh, ma io non lo so, ma non c'è la dridria, non ti sei più vecchio di noi. Ma che cazzo, non sai cosa la dridria? No, la dridria, no, no, veramente, non lo so, ma non è che gialli. Dicendo ho capito, quando vedi c'è al corso là. Ehi, se sei vecchio, ma è una scelta, non mangiano, mi ripeto, la dridria con un coso spuanto a pinturoni. È una cosa non ti sta bene. All'alba dovrebbe essere la dridria, dovrebbe essere l'alba, perché mi ripeto all'alba, la prima mattina. Ma pure adesso c'è. Ficcato, Mario, pure adesso c'è, la c'entra. No, io sono arrivato, ciao a tutti, buon pranzo. E guardate il vocabolario che c'è, che con la Bibbia che l'ho voluto sapere. A me dai di Dondù. Comunque la Dondù è invece il sottolatto. Io ci sono lì, Dondù. Oh no, hai capito, sono che la mia mamma, vediamo un po', perché mi risponde. Luca, dimmi Mario. E la gogna, non sai cos'è? La gogna. La gogna, no, ma è inteso. La gogna. Thank you. figlio. Ha chiamato un mollo, speriamo. È finita? Ho preso il Mario, ha chiamato un mollo, speriamo bene. Perché? È buono il pollo? Vabbè. Non c'era quello il virus in giro? No, sì, adesso è cosa più bello il bollo. Il modo di CD. Ah, non so come mette in dubbio. La vita è una CD che diventa grosso, dai. Ma aspetta un attimo, mi sto mettendo a lei. Ma la volete finire, non per i coglioni? E te ne immagini, aspetta, a Carino. Compagnia si sta cercando, Luca. No, no, no. Ancora un gioco, ma... Ma nella vita tutto può accadere. Fate attenzione, pure voi. E voi ti gli occhiali. Ma tu immaginare che Luca... Avete finito di rompere i coglioni, eh? Avete finito? Vi chiamo i carabinieri 24364, avete finito? E Luca Fuzzoni, eh? Hai finito? Ma stai qua, c'è un'amica mia che è ingannata. Ma non mi piace che è troppo grassa. Ma tra voi... Troppo grassa? No, ma non è che sia il suo bomba, è grassa. Ma non è la grassa, non è che sia... Se è l'agna è meglio. Ma l'agna non andrà bene, a me non mi piace mica ammirando. Vabbè, più l'agna sono culo, l'agna è che andiamo in corto. Magre non è che mi piacciono molto, no? A me mi piacciono bene in carne. Ragione, ragione, Mario. Chi si chiama la sesta, va? Non so chi ti basta. Vabbè, voi ti fate i cuscini gratis. Ma le mando in piedi. Ma fu domata, però, eh. Già la dormiamo. Se tu mi dai, tu mi vuoi. Dove, Luca? Tu mi dai, tu mi vuoi. Io anche ne per tutti. Tanto sono di un'astinenza. Come mentre in mano gli già rimane soddisfatta. Le donne sono come le mattonelle. Più le scoppi, più diventano belle. L'uomo con una sega lo butti a terra. Quello già è vero, già. Che si dice, mi vuoi? E io la faccio diventare bella, perché la scopro molto, capito? E quindi, mezzo ragionamento io. Mappa gappa, per carità, per carità. Ah, me la nascio camminando, va, va. E la prima nascio camminando, ma la dissi, vada, io. E tu mi dovevo lavorare io. Ah, io la sono andata lì. Tutto e mezzo. Una mezza, Mario. Una mezza? Sì, 2:26, dai. Gappa gappa, pensa un po'. Pensiamo di andare a Nemo. Gappa gappa. E purtroppo quando chiama bisogna andare. Se no pure a fine mese non ci sono piccioli. Poi su questo non diciamo di andare. Ma chi sono a Sagolla? Sono a Sagumba. Che tanto a devi. Vabbè. Ma noi che sono mandando un po' di piccioli, gli dà andiamo a fare cose. E gli dà. Purtroppo sì, Mario, purtroppo. Gappa gappa. Quando quello di tutti dice aiuto, c'è di rimbocci lì. Aspetta che mangi la valigia, non venai zittano, anch'io, andai mu. Sai che diretta mi dobbiamo di sigaretta accendino giù l'ale, sì sì. No, non venai male, anch'io, andare mu. Andata, sto gratis, pagatevi pure andare da, senza ritorno. E allora, posso accostare un po' qui il funerale, ma come dici bocca? E io già un comune, siamo vedere per un comune, una casa 4x4. Fuori strada. Allora, ecco 4x4. Oh, e lo posso pure passare a terra, eh. Tu vai, ti faccio un buone, lì. No, chiamami giù io piano piano. Hai visto? Rotti buoni, e la bottiglia è buono di buio, sai che ti seguisci. Qua è successo, qua il cuore va colato. Giantuno, che si chiama? Io? Sono a campagna qua, Giantoni, e non ha pure di un bastardo, manda tutto, l'attura. E mi spicchi i volenti, e non le reti. E stava facendo la messa, e che ha buttato la bala, era una festa. Si dice che era vivo, tranquillo. Se sei dentro la luce, tranquillo, che tu sei un po' la piada mi bravo qui, io il bavaro questo, non ho fatto vita mamma, poi mi sono grande la pittorra. Diciamo che tantissimi anni fa, non sto parlando di ieri o di oggi, ce n'era uno che era ricoverato in ospedale, allora c'era l'ospedale civile in via Fiume, e dice che questo qui è morto, dice che gli è venuto come un arresto cardiaco, no? Però non è morto, l'hanno messo nel tavolo della camera mortuaria, è morto, e invece era vivo, poi si è ripreso, capito? Hanno pigliato l'ascio sul gatto lungo il fiore e uscito con la chiesa che mi ha tumesso. E gli becco la tubetta, diciamo, un catalisi quello era. Ha fissato, dice, perché ho detto, ma papà non è successo, un uomo vecchio che avrà avuto 75 anni, 70 anni, non mi ricordo, e ha buttato la bala, poi c'è stato un giornale, ha scritto toc toc, poi i carabinieri dice, e poi hanno aperto la bala, ma i carabinieri, là, i vigili del fuoco hanno aperto la bala, con fugosa, poi c'era scritto, hanno chiamato i vigili del fuoco, con fugosa, e è vivo ancora, si è ripreso praticamente. Ma il comandante che era lì all'ospedale civile vecchia, ah, è vero, che gli è venuto qualche attacco, qualcosa, ma era completo la mano che stava molto aria. Però dopo di un poco si è rianimato questo qui, hai capito? Si è ripreso. Cazzo, come si è mosso? Cazzo, se ne è accorto quello che c'era, che fa un bicchiere, che poi si va anche molti. Ha iniziato a fuggire, e si è non l'ha pigliato. Ah no! Via, cos'è brutto solo? E lui che ha fatti cremare e via. Allora, ma si pagherà pure per quello. No, stai tranquillo che sono qui sotto i figli blu, Uri. Vabbè, ma vuoi che ce la sono un orro? Alleluia, si è rotto in casa di Bili. E lui sicuro. Ma poi a te, noi siamo ridati, ma prima o poi si tocca, A parte degli scherzi, a voi Mario. A te, a Natalino, ma hai dato quali problemi della sigaretta, problemi respiratori? Io sono come asmatico dall'uso della sigaretta. E a te, sono Natalino. Cosa ti mi stavo seguendo? Ho detto, la sigaretta te ne ha mai dato problemi respiratori? No, ragazzi. Ma hai mai fatto risiedere il fumo? Sì, da vicino di 14 anni, basta. Non mi ha aiutato a non fare. Cosa si fa? Ha tipo ansia, non riesce a respirare bene. E cappagatta, la pallina. Ma io si basta buon un anno, non me ne dà problemi, tutto il niente. Ma questo periodo è a poco lo stesso. Dico, bruciamo, io non me ne fumo pacchetta al giorno, non di più. Sono vingiosa, magari, si dice in burdui. Cappagatta. E io pure, due pacchetti al giorno. Ah, ma io parlo se sono in giostra, sono la barba e vendo oppure qualche seminata. Ma così la bici. Ma pagata. Cappa di positivo. La sigaretta non è roba, Però purtroppo ci abbiamo questo brutto vizio. No, proprio fa male. Fa male, balo. Vabbè, un casino, basta una sigaretta, un casino, vabbè. Basta un piccolo infarto, e c'è appunto. Cazzo, non dai lì, non è fatto per rimanere ecco. Ma per farti capire che è l'unica, è che lasciare la lungina non riesce a farci, cioè perlomeno, io sono... Sono 16, 17 anni che fumo. E cosa vuoi che sia? Allora, Marco, più di un doppio. Vabbè, Mario, non è. Guarda, io ho conosciuto questo signore, stava in piazzetta, aveva 80 anni, era incinta. Sì, ho un tantino di anni. Guarda, io sono che era 60 anni che fumava, 60 anni, 65 anni che fumava. A me la sigaretta non mi ha mai dato problemi, mai. Eppure ne fumo tante, mai problemi mi ha dato. Cappa. Allora, a tutti no. Anche a tutti non fa bene, come a tutti non fa male. Capito? Cioè, non gli dà problemi. Però mai dirà mai, li dirà io. Anche prima o poi può succedere. Capito? Beh, tu guarda la mamma di Leo, siamo di Andrea. Ehi, Antonio, Petre, ti ho provato, no? No, in campo, sono quelle Petre, le sceglie che sono al corso. Io sono di Andrea. E la cosa, adesso vi dai cosa, Ma tu non la conosci. Ma che non la conosci. Se lei che mi insegnata che è... Non voglio esagerare, ma è 40 anni che aspetta la circolazione. Malizia, andai. Dove si metteva la roba a asciugare, le mutandine, i calzini, la roba piccola? Si metteva, c'era la coppa, si metteva un bracciere dentro e poi sopra si metteva queste strisce, erano strisce di marzonite, chiodate e fatte a tipo, come può essere una gabbia, era un po' strisce di marzonite che faceva il cerchio e poi sopra c'erano le pezze per non caderci la roba dentro e ci mettevi sopra i calzini, le mutandine, la roba che ti cambia tutti i giorni in inverno, capito? Allora riscaldamenti non ce n'erano, le mutandine, i calzini che te li cambi ogni momento si asciugavano lì. Scappa, io sono di 40 anni, non vedi prima con 40. La soluzione non sta lì. Cosa? C'era qualcuno sotto, chi è che stava parlando? Tu vedi? No. Sta lì, tu conosciuta la raccoglia? No, io no. Però no, asciugavano la roba in inverno, in famiglia, là, non tutti che avevano il riscaldamento in quel tempo lì, no. Vabbè, ma io non l'ho conosciuta Mario, capì? La drilla che gli giostoli. So, già lo so, lui. E cappa, là, che ve... Un po' di malato di salire si sono dimenticati. A vedere, un mattino a brutta, a brutta cuppuga, a brutta maciociata. Cos'è la brutta maciociata? Dopo le stesse la brutta gli fa... Gli fa tipo cucchiaio, là. Ma... quella che c'ha tanti mucchi. Ma lì si è passusata, lo? Se c'è un buchi che la lasciando la roba dai buchi, capito? Allora la brutta cuppuga gli fa... E gli fa... tipo cucchiaio, là. La brutta cuppuga, c'è il fondo, c'è là. Per poter tirare la minestra, io sono la brutta cuppuga. Tu che mi sa farà, lì? Era muscolina. Allora era muscolina, Mari. E la moschina cos'è secondo te? Io si che possiamo inesorare, cosa so? No, la vetrina è fatta da gran picco. E la buttista, cos'è lo sai? È una moschina, è il sanghiglio. Il sanghiglio se non è il maglio era un cazzolaccio. No, il sanghiglio era... Il sanghiglio? Il sanghiglio no. Il tabacchino era il sanghiglio. Certo. Ma non può più capire, queste cose ma come dici sai? Ma c'è solo un bel, non si sono più ormai. Io da mattino, a vero, un bel balauri, non ce ne ricordiamo più perché hanno cambiato molti nomi, hanno preso, è diventato un pochettino un casino. Sì, mia mamma lo parlava bene a Caffarese, antico. Mi mandava a prendere il sudavacco da svilupparmi e la mente ancora chiede a sviluppare il sudavacco. E Giamai, si di Spagna, chiamava, che sono salvato, e mi chiamava a risare, se mi la chiamo, una vicina, non so, qua vicino mi barriere, si dava, sì, si di Spagna si chiamava, e si inviava da mattino, lì, cappa, cappa, prima vendiamo il muro rosario da Vacchino. Perché quello, no magari, ma il continente sì. Infatti sì, il continente non lo potevi portare il sale, perché sennò era contrabbando. Vediamo un po', si chiama il nostro, cosa è già la rigaglia lì? Sì? Non lo so, e tu in questo buco, lo sai cosa? Non lo so, cosa, tu non so io la rigaglia, ma il scuola lo sa. Non si muove un carolo. La rigaglia di Mario. Cosa? La rigaglia di cos'è? La rigaglia di. Cos'è? Sta lì? No, non lo so io, neanche io. No, visto, neanche voi lo sapete. La carota è la rigaglia di. Ma senti. Le parole ce le siamo dimenticate, giustamente. Sì, c'era prima un gioco, antenna, non antenna 1, ah, cosa è arrivata? Che dobbiamo dire le parole per fare le difficili. Ah, oh, signori, ormai la nostra parola dei parrisini, purtroppo dobbiamo lasciare perché dobbiamo andare. Ci sentiamo tutte alle prossime. Ciao a tutti e buon proseguo di serata. E ciao Mario, buon tutto. Ciao Mario, ciao alle prossime, buon trabacco. E buon lasciare i brusini di tutto. E comunque ci sono molte parole che noi non conosciamo, tante. Sì, perché noi lo parliamo in italianizzato, non è più come una volta. Infatti anche l'accento è diverso, mio nonno lo parlava con un accento tipo il portoghese, il sassarese antico, ha un accento diverso da come lo parliamo noi, il sassarese. Il vero fossero già antico, ma tipo un disincolo? Ah, diverso, la raccolta diverso. Tipo un bici d'urrisi, ma sembra delle impressioni diverse. Mia nonna lo parlava bene, fossero già antico, a chi era della Fusicuru. Quando era di 15 anni l'ho già vista, era Sagrida, e quindi giustamente parlava di fare gli anticoli. Ma vada, va. Sì, infatti noi abbiamo delle discendenze da Porto Torres, da delle Porto Torres. Sì, là. Però se fare gli antico, si assomiglia al Porto Torres, dall'assento. Però neanche loro, anche loro hanno perso l'anno. Ma noi non lo parliamo il vero sassarese antico, quello lì il sassarese che parliamo noi non va a far vita. Infatti, non si italianizza. Sì, ma anche per lo sovesi. Non penso che conoscano le parole di una volta. No, anche loro non va a far vita, no? Sì, magari prima lo parlavano uguale, capito? Adesso è proprio senza accento. Invece prima l'accento c'era nel sassarese per antico. Oh, posso dire che è uguale alla tua? Sì, 2.000 franchi, invece di 1.000 franchi, dici? Ma 2.000, la padiglia. No? La padiglia. Padiglia? Sì, la padella, non la padiglia, come diciamo noi, la padiglia. Sì, la brudda. Un'altra impressione trova il sassarese antico, la pista. Tipo portoghese, era. Solo non mi ha trovato già tutti italianizzato, là. Quello che è caduto, dicono caduto. Sono le parole che scappano. I Trinidai, i Quadridai. E poi... Cosa è successo? Ah, ma me lo sapevo già lì. Ce ne siamo accorti. Oh, guardate, vedete che ho trovato una fotografia di quando avevo 19 anni dentro il 127. E va. Quello che ho distrutto attaccato a un ce l'ho, la prima carriliana, ci sono io parlando con Marco. Non ho una fotografia, mamma Gigi. Tutta la maestra. Album di fotografie piene. Più cosa dovessi dire? Ah, anche la diapositiva, perché io facevo molte diapositive, quando servo l'obbligo della fotografia. Sì, anche io sono tuttora diapositore. Sì, tutto lì l'ho lasciato. Magari sarà in casa della madre, non lo so. Sì, quelle le diapositive rendono un bel, sono delle luminose, ho fatto dei tramonti, le diapositive sono bellissime. Io ho tutti i vecchi ricordi di amici, c'è Antonio con Lucifero, con la neve, con l'ex ragazza. Ah, questo è tutto, visto anche lui. Anche lui? Sì. Sono andato nell'ufficio, l'ho suonato, l'ho fatto ciare, ma ci ho fatto fare la barbecchina fino a fila attorno al viso. Sì, ma è vecchiato. E tutti diciamo, un buso che diciamo, uno che diciamo ma sei, tutti sono vecchiati. E tutti quindi diciamo uguali quando vai a militare. E pure c'è gente che rimane sempre uguale, lo sa. Sì, già. C'è quello che vi cresce i capelli bianchi bianchi, c'è quello che rimane a caldo, c'è quello che per dire i capelli celiali rimangono neri. Insomma, siamo tutti diversi. Sì, ma tutti bessi, che bello, ma i capelli belli che bauroso. E mio padre lo stesso l'ha apprezzato ogni tanto i capelli di fibra, da un tifo che ha avuto. Capito? Vabbè, e lo sapevo. E babbo, ma se la fossi... Lei la dessi da giovane, ma te? Allora il tifo si moriva, era difficile che si salvava, il tifo lo faceva morire prima. E la tubercolosi, i tifi, ma era divigato, si vogliono morire, si mangiava guida. Come fanno il tubo, la profittonessina hanno curato pure la tubercolosi, da che ricordo. Ancora lo so, gli ha fatto lì, nel porto 3 mesi stava attorno, non ci fa. Vuol dire che abbia bisticato. Io lo stesso ero con una collega una volta, guarda, sono andato a fare la visita perché andavamo al dispensario a fare la visita ogni anno noi, no? E siccome questa collega aveva avuto una relazione praticamente, gli darà la bisticata, a me no, manco mari. Ancora mi sono filmata, via in sanatorio. Ah, l'ho lasciato con le vita. No, ma che cavolo, ero pagato, ero. Quando ho capito che l'avevano bloccata subito in sanatorio. Questa. E sono andato io a farmi la visita e no. Perché ogni anno la facevamo anche noi, no? Noi ogni anno facevamo anche il libretto sanitario, ci facevano i raggi, tutto quanto, no? Ma la relazione tu l'ha avuta quelli. Lei l'ha avuta, lei sembrava ballare, la prima cosa che ha dovuto curare è la pisciata. Allora, no, io pensavo che tu mi sentavo, la cosa è quella che pure nel contare, ho capito, non ho capito. Cos'è che hai capito? Che ti vuole che avessi una relazione con lei, avevi pure nel contare, che è per quello che fa la visita. Sì. Ah, la dovevo fare anch'io la visita, però paura nel contare ce l'ha avuta di brutto. Perché saremmo a contare? Te credo. Allora, perché ti ha detto assi? Ma ho detto un assi. Io ho detto comunque, quello fatto non l'avevo visto preso. Sì, perché quello ingegnere che conoscevo, che era ricoverato nei fettini, quello lì mi alleghevo. Allora, tu fuori, se non messo questa tipa in collo, aspetta, dove era? A Rio, mi pare. Si è messo con questa ragazza perché la stava lavorando là, dove c'era un cantiere, se la messo con la tipo, poi io devo partire e ogni tanto ci andava a provare, ecco. Praticamente qui l'ultima volta ho detto di non andare perché praticamente doveva farsi una visita, perché lì era il positivo, però non ho fatto niente, però con te che la riesce. Quella è una bella fregatura. Sempre di niente, che dice, lui non ha mai fatto male a nessuno nella vita, perché lo fa succedere a me? Perché? Guardate qua, non è bisogno di prendere la misura, c'è proprio la misura. Così mi faccio fare la barra su misura, diciamo amici, io non dico nulla, non ci dici tu e così a me non ci penso più. Sì, molte volte la gente ha preso la conforto quando è così, giustamente, si vuole ammazzare. Lui ha detto che non c'era il coraggio di farlo, ma la stessa me se gli davo qualche pastiglia. Ha detto, come faccio a dire? Che così mettono in galera, tu devi aspettare che ti chiami il signore, non è che devi... Guarda, un bel triste però la storia, quando mi diceva, ma purtroppo io l'ho amata, non è che c'è una relazione così, l'ho amata questa ragazza, non è stata sincera con me. Se non l'avessi detto dall'inizio io avrei usato precauzioni. Allora... Sì, ho ballato da mezzo di mare, bellissimo schifo, schifo è brutto, cazzo, non voglio più fare. Sì, è sì, meraviglioso, no, per prendere queste cose, a me se vuoi che tu una malattia per me. Ma va, ho io. Oggi è produttivo, se non sai, non sai con chi stai andando, è una cosa da non fare. Devo fare la farmacia a testa, la farmacia. Avanti. Allora, te l'immagini questo look? Oh, io. Ah, ma... Una che sta facendo la corte, mattina e sera. A chi è Luca? Allora, lui non la vuole. La corte d'Assisi, mi prendi. ma tu Luca, ragazzo, dovrebbe essere un tintato la razza, ragazzi. L'hai trovata, E va? Sì. Perché mi chiedono? Perché mi chiedono di un maglio di spero, io andiamo a quella gardiola. Guarda, mi ha detto che taglia c'è di golfo, di felpa. Nessuna taglia, te e dira. No. Sta rinfaccia, la pone voglio roba rinfacciata, sì. Ah, se lui sia la 9. Non me la conosco, per carità. Per carità. Tu dici, ma se non la faccio me la ricopravo, la cosa. Oppure dai. Di manca, perché se no non mi piace la stessa di manca. No, mi sembra che ha di là su questa forma. No, non ci vedo di affagarsi, no, bugia. Avevo preso 89 euro che aveva pagato, in più avevo, insomma, no, bugia, 100 euro, il nuovo modello, perché non chiedo mi piace a me, insomma, pantalone riciclato, pacca e già, hanno preso quelli che mi prendono sempre, e ho pagato 85-89, e niente, in più ho aggiunto 5 euro, ho aggiunto, ho preso anche una maglietta della Levi's, bianca, non mi piace, ma l'ho venduta. Ma perché dico lasciare lui? No, lavora già. Ah, lavora e lavora non è visto di abbigliare? No, bidella è. Ah, che fai, ho capito. Assolutamente. Pappa gaffa, ma me l'ha fatto un piatto. Questo è proprio che non è contenti. Quando c'è la pappa che fa te non ti piace, quando invece c'è la te non ti fa lui. E ma io che devo arrivare un attimo, cioè, è troppo pesante. E qua sono la testa per cortesia, sto la mia do marito. Capo. Cosa fa? Io non ti vuoi, è solo questa cosa. Io ti fa la testa, sei contenta. 33 anni già. Mamma si chiama? No. Ah, no, perché tanto per una che mi stava lì. Che anche il padre è il lupo. No. Sì. presentato a me il vostro amico di Luigi. Non lo vedo, non credo che sia stato sposato. Cosa ne prendo? Una ragazzina. Natalia non vuole aspetta, io ti devo aspettare Natalia. Io sì, mi guardo, non ho composto da tutta Elba. Poi Marcietta, poi la retromarcia. Ma non mi si può chiamare. Minori è ma. Piccolo è. Che non mi vede, non è sempre due. Comunque, Natalia, non ci posso andare a togliere lì, ma giusti, eh. Oh, Ino. Per carità. Comunque già mi ha regalato profumo a Roma, mi ha regalato. Sono che mi ha fatto regalo. Se me l'ha fatto. Ricarica il telefono ormai me l'ha fatto roba di 200 euro. Oh, sono stato innamorato. Sì. Allora, scuola con me, no? E si è fidanzato questo tipo. Questo tipo lì, ma questo tipo gli ha praticamente l'ha campato oro e sigarette ogni giorno e profumi, l'ha comprato la macchina, seconda mano, un appunto, chi si incontra alcolizzato, due giorni l'ha distrutta, un appunto nuova, andava bene, e l'ha distrutta, poi da lì non so cosa è successo e siamo andati a cagare, ma non mi ricordo le roba a vestire, cellulari, tutto l'ha regalato. Come non tu, non mi vuole, no, non te lo so fare. No, infatti non mi piace, non dico che di cazzo vuole cazzo male a me non mi piace. Non mi piace, no. Ui, fate che c'è un carattere di merda, fai già la ghisi. Non lo so fare. Capito. Cosa la sta lì? Da mare bisogna saperle, domare. Vedano che rompe più le balle, a chi non vuole venire a vedere la mano Giulia, se no mi capi due da voi. Tu dici, ma sarà. Parlo di tua moglie, però fa intendere. Parlo non so parlare di tavolo, ma lo chiamo adesso, non mica ti devo chiedere, no, assolutamente. Non fa intendere. No, ma non ho detto che sia così forte Luca, io ho avuto delle ragazze che erano loro che mi tiravano. E all'auto brutto si pare stravarda, che bucino giù lì. Quasi meglio. Già se l'hai avuta più tu con la lettera vasta. Comunque sia, questa qua è la sua Roma e niente, si è stato con questo. E un giorno oggi di passaggio stavo passando gli sconti, lì lavora anche al verde nel comune, no, taglia l'erba, si raccoglie, pulisce. Stavo passando, ciao, ma sta? E oggi, cazzo, ma adesso il giorno, dato il numero del telefono, non è mai visto un caffè a casa tua? Non me l'ha mai invitato, mai, mai. Poi mi ha detto, no, casa mia uomini non è, ne è entrato uno, ma non entrano più. E niente, nel giorno ho fatto il numero, ma me l'ha avuto adatto. Come se la sullami, liscia, ui, ui, ui, non sapevo, e tanto, fa una cosa. Questo numero, come ho trovato, cancellalo, non l'ha più cancellato, l'ha sempre, è sempre mi stressa. Allora sai, quella Elena, non era spagnola, no, quella che avete ascoltato voi? Che mi dice? No, no, le Canarie, delle Canarie. Così, in banda laterale, sui canali di sopra, arrivava a Santiago 9 e 10 qua. Una bomba! A me ha detto che mi gusta Tenerife, mi gusta. E mi sei tutta canta a casa, chi l'ha detto? E beh, si chiama il mio corazon. E si va a sbagliare per i fondelli, ma attacca a ridere. Cazzo, Elena del mio corazon. Cazzo, mi va lì, me la va lì a tutti, la va lì. Mi va lì a tutti. No, ma adesso ti hai parlato, già, sembra che, guarda, ti comballe. Io non dici tu, sembra che la terza volta, la quarta volta. Senti, a Luca, hola, hola, Luca, hola, hola, Luca, di qua, era tutta la sera lui. La, mi sembra furbilla a me. Io sono l'unica che direttiva, che mi pare impossibile che arrivi ai supporti. Tata, no, che in banda laterale, 9 e 10 mi arrivava già. Sì, sarò. Ma che ti metta la nostra trovata a fare acqua o a cosa? No, non devo rimanere. Ma è manda la bomba, una bomba. Allora vedo la bomba. Mi sarà lì sopra con altri tipi del suo paese, era. C'era un altro italiano, altro mentre erano. Facendosi il questo o no. Senti, Pina. Ma è da meglio che fossi tutti rati. Sì, anche la tua idioma, c'erano amici sui per me, erano la più forte. Tu ma simpatica, arrivo. E mia, ma io, gli arrivo come che dalle 20 minuti, è arrivato a peso, è arrivato a mangiare. E vabbè, tu la stai a parlare un po', ti arrangi, io tra la bocca di Giamà, poi se non parlare italiano, sei a dronca. Parla, parla, sta giovata, lo parla. Alessio, stai innescando. Non so le farlo. Adesso no. Aspetta, ha fatto un uovo di lì, eh? De che si l'aere? Si troppo basso a lì, si capisce male, capito? Capisco a malapena a te. Non è tanto la voglio riflettere, però è un sistema molto difficile da... da provare. Hai visto la voce da cassa? Aspetta, Antone. La chiesa di che si va bene, non è pratica, di che si fa sì. Io stavo a vero, data lì. Non l'ho capita io, non l'ho capita perché arrivava a bassa bassa, poi c'è il baracchino anche lontano, al palè. La prima la prossima Sant'Anna andiamo ben mari. A pietra, città di Corazon, vamos a ver se vai spiziando un Natalino al Faluno. Adelante, però comprendito. Natalino, sto bello di Gesù, mamma mia. Vamos a ver, muchacho di Corazon. Mustafa, Mustafa, Pissetto, le ricetta. Attenta, spicca le installazioni. Sta parlando così bene, la cosa che faccio parlare, dai. Stoppa, stoppa. Ma spagnola? Sì, spagnola tutti. Come ti chiedi? Senta, signorita, la Spagna, se vai escuchando al nord di Sardegna, io la chiamando. Aspetta, ti rispondo. Dime. Hola, en español. No parlare lo spagnolo, non parlare. ¿Tú hablas español? Natalino es españolito. Ma sta parte con la sua. Oh, Patonello, ma li hai controllati qui? Come sono, si chiamano? Quei prima, da quanti sono quelli della camera con i Giovanni? Non ti viene, ma ti viene male a leggerli? No, c'è la figlia che lo sta solo a Antonello Cisano, perché si presenta 4-1. Napoli, non ricordo se si vediamo. Comunque, lì mi sono stato la sera, ha fatto la figlia dove mi faceva le uguali. Ma faccia l'uno, no? Vabbè, ma se si possono leggere, ma ancora fai tu a leggerli? Perché c'è scritto, più o meno quanto sono. Perché c'è stato un effetto lì. Diciamo che va bene, ma la mia è troppo veloce, lento non va, sono veloce. Tutto lento è zero. Perché sono la corsa un bel corta hanno. Non sono di quelli che fai fare il giro più lungo. Se non fa che fate la sera, ti guarda, ti viene a fuggiare, se non viene trovato la tua volta, che problema. Tutto con il sera, ti fai la regola e poi... Che regola, faccio sapere che la ripetizione e devi fare la modifica, se non cambia nulla. Che non ripetevano, però quando finiva di parlare si sentiva la il caso dell'ecco, ma bello veramente quello di stamattina. Uno lì c'era dopo il modulometro, sta lì. Uno lì ha speso un po' di soldi, ma un bel però. Ma è un altro conto quello che sta lucca, fatta una lucca, una tutta con il Giovanni di scuola. Quello che sta lui, un altro conto, capito? Molto, spegnere quello che c'è nel palazzo di Giovanni. Come la testa avevano così basso? Io ti ho messo a punta, adesso è andata con il palazzo di Giovanni, vediamo così, ti va? Ma non mi devo dire il processo? Adesso con la torre, te? Ah, c'è stato un innesco, è stato qui. Pareva una gallina in chilometro macchino. Aspetta che hai un bene, uno e otto qua. Aspetta che hai, sta colato. Accorda, ecco, va bene, accorda per di più. Per disfatto. Stava. La magna, la singola, la morte, la quinta, la singola morte, è quinto. Buona la comida spagnola. Si fa parlare la carriera, aspetta, vediamo un po', sta un pochino. Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú. Atenta, señorita, ¿te gusta la comida italiana? Me gusta la mañana, me gustas tú. ¿Ahora estamos escuchando? Più forte il segnale, cioè più forte la radio, più forte. Questo è quello che ho fatto. Uno, la Ecco, 5 stelle. Allora con il cavolo ecco perché non andava. Si sente troppo il reverbero dell'eco. No. Levalo. Questo va bene. Vediamo un po' se la ascolta Natalia o la spagnolista. Oh, ma vediamo se sta con lui. Già la dovete sentire se si è più chiara. Poco fa già che si basso, in più sta dicendo male. Io la sono ancora con la nostra mancata in via, così me lo dicono a te. Questa è una cosa di incontrarlo. È chiara la modulazione. L'antenna cambia più cazzo. Io voglio riconsegnartole. Quando glielo devi consegnare. Stato mio che io veniva a salutare a tutti i venuti. Vuoi che glielo sfotti tu? Dai, adesso vediamo, se riesco a averlo io, me li prendo io i numeri del streamer, vediamo un po', mi piacciono quelli. Quello là me glielo porto io stasera. Sì, io, magari il sole, non lo so, lui so che la volontà, quindi è stato tutto per via salire, però questa settimana capisco perché con la volontà non è che sempre di te. Con la volontà è tutta malattia, perché a volte lo sento questo là, mi fuggito un po' più alto, Ma Antone, di la messa, già. La messa vuol dire? Ehi. Aspetta, Antone, lì, signor. Aspetta, 5 minuti di lì diventa la sua notte. Ah, Sono andato alla montagna, non ho fatto. Allora, amica, cosa ha fatto giorno in giorno? Sì, mi dico che la portata di... La portata schiacciata, l'ha fatto anche con me. La portata schiacciata veramente, cioè, io guarda da casa io. E dopo quando sei riuscito a telefonarlo, Claudio, e non l'abbiamo fatto a quello, di nuovo era abbastanza in vista. Poi Bruno ti era abbastanza fissato. Anche non me l'ha fatto, per Dio, stavo parlando. Già, la parte non sta portando, già. Boh, io ce la guarda. Boh, 5 minuti neanche. Già, ne la passo. Già. Dico, boh, portante, che. Poi la staccata della prima, quando lei se ne ricorda, già, c'è la portante, no, io mi sono domandato, la portante è schiacciata. Infatti quando erano la cosa di disabare, bene che entrava la mondina e mi ha attaccato la bottana. Invece Gabi è riuscito a svegliarlo e l'ha attaccato, la pizza. Sì, vabbè, se sei una bocca sola, una o due bocca. Quando sono andato più difficile, sono stato più usato. Ma ti può capitare anche, ma se quei sdraiati ti giacca una parte, col microfono fa male già. Ma se va bene, lui ma ti vai addosso, neanche te ne accorgi, può capitare anche un microfono normale. Sì, tutto può capitare. Io una volta qui, con la volta che sto cercando io, se ti vuoi faccio la mamma. Ti senti proprio in diretta. Si chiudiamo i zicchirri. Ah no. Tu sei sentito. Dove si è attaccato il microfono senza volerlo, sta e poi si sta la portante. E senti lì a Bustiga. Si dice, stavo facendo sesso. Ah, ma lì gli hanno preso la mora che hanno voluto coniugare. Beh, vuol dire, duccava, lo durlo. Che vero Dio, lo stava. Ah, così è andato a coniugare, già. Sì, non tutti, ma... Il giorno che fa male la testa, il giorno che manda lì e stacca, il giorno che è, va a finire che si fa sempre l'uno, due volte fisso e basta. Comunque, qua dico pure questo già. Ci sono state anche separazioni dove molti voli. Perché magari lui, capito, lì no. Allora lui ci andava con un'altra, poi lì magari voleva, lui no. Allora lì si è accorta lì che lui andava con un altro. Sono fatte anche separazioni per quello. A voi non ce ne sono state, ma tante volte ci vuole sopportazione in cucchia, non è che uno vuole pretendere sempre cose che vuole essere fatto, bisogna anche capire e avere sopportazione e tutto. Non è che tu, perché siamo disunati, cioè che siamo all'altro e capisci che vanno in un'altra e finita. No, ma sai tutta la cosa che sei voluto ascoltare dentro la tavola? Proprio all'incendio. Coppa. Cattala, ha fatto un tutto di fuoco. Ma, adesso ma anche io si scende anche. Io ho fatto una volta io ho fatto fuoco. Ma se di già mi si sarà abbastanza in di mio maestro, già, con dei risolvizioni. Ma, quella non esiste. Io spengo tutto, mi devo isolare quando faccio queste cose, no? Non accetto né campanello, né telefono, né nulla, devo essere in un altro mondo. Eh beh già, ci mancherebbe. Ma adesso vado a mandarci giù. Ma come, questo qua che hai sentito tu, cioè come... Ma come ho capito, come ha fatto? Questa è la prima palla dal barattino, poi deve essere si avvicina alla moglie, lui che ha cominciato a smacciucchiare, ecco. E lui ha lasciato la portante schiacciata, scusate, ho toccato il microfono di cui la stavo, no? E si sente tutto. Ma si parla di un mondo di anni fa. Ma quando lo sai di chi sto parlando? E dopo come ha finito tutto, hanno fatto la applauso. Ma che l'intro? Che ti dicendo di cosa? E vabbè, vuol dire che doveva succedere. No, l'ha fatta apposta. Ma è successo dopo fatto il bimbi oppure è stato un caso? No, ma ti pare che io l'ho fatto, sono un buffone quello mi l'incidente che gli è successo perché si è lasciato il baracchino acceso, ha tutto. Magari non ha pensato che era spento, perché non sentiva nulla, che era abbordante però. Come si vede di percorso? Allora, si è avvicinata a Lida, e allora è dovuta dalla dove vai su la dove. E sarà visto, non ha fatto un po' di nulla, è che te la porrà. Sta lì, sta che è di Tarrisciani. E pagoli. Come si chiama l'approccio? Cosa? Fa prendere una resa così. E mi si chiama l'approccio. Sei staia. Ah, sorella, ruba, ma non vai più. Ma cosa c'è? Tu? Cosa che ti fai la prima cosa? Ma un tantino, hola, hola, lascia vedere un po', si innesca, hola, lascia vedere, non sta innescando, però aia, soia, ma che sta innescando? Prova a vedere Antone, no, io sto innescando. Ma ti vuole un po' sentire la cosa? Sì, adesso no, non ho fatto bene, giustamente. Ma tu che sei in viaggio? Ma non è come una volta, una camera eccola, te lo ricordi Antone? Cazzo il Papa sembrava parlare. Di via la messa, si dice che la messa, direbbe me che la ebuca. Cari fratelli e sorelle, a voi modello numero 4. Sarà più grande, bubu. Grande non è male, tutta la notte più grande, la sanguella. Così sento da tabbino 20 giorni il gioco, brutto. Fagli fare un 10 Antone a Natalino. Con questa, ma che cosa fai? Non in spagnolo. Ma che cosa fai? Sì, cosa fai? Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma cosa fai? Mi fa venire la camera con te. Come quando tu vai, non ho fatto l'accento, uguale. Ma cosa fai? Non ho fatto la camera, non ti capisco. Sì, ma cosa fai? La capisco io perché sono abituato con te. Sì, ma noi questo discorso non lo sappiamo fare. Possiamo fare la chiamata, dire qualche parola, ma non più di tanto. Sì, ma sono stato violente, questo parla anche se può fare un po' di insomma, Cazzo, che i senegalesi sono un bel intelligente, parla anche se fa legge. Ah, fa buon sentirlo, devo fare. Che parliamo con lui, quello lì parla. Ma lo parla brutto, ti fa delle domande, ma non c'è più curato che sapete, io prego qua come ti hanno, non si scuscia a me gioco, io con quel gioco che cosa, se no non posso di là oggi. Ma lo conosco un po' vicino a quello. E dice, cosa per il vecchio? Per quello perché magari le donne parlano lì, tutte le sapere, i ragazzi ti cantano, si sono abituati. E lo conosco anche io, sempre a tratta a mano, insomma, te lo ricordi? Ne avevo fatti di via di Gemara. E io che l'ho sicuro. Hai detto un maledetto. È stato con una bella luna veramente. Siete qualcosa. Guarda, pagata. Così pareva. E vuoi farci domandare che sono domenica, no? Boh, va. Io non mi sono molto informato, perché tanto non so più che pesce si ha. E mi dice ma che questa non si va, si abbia nel lutto. Io vado di andare, devi fare una cosa, se ti voglio vado di andare, perché se lo devi fare una cosa se non hai diritto a corsi statali, eccetera, eccetera, a fare concorsi. Ah, che me ne sono esattamente, no, perché sei minuti, più di 20 anni che fossi. Ma non me la fotti nuda già, tanto, al bar, più di uno che è candidato. Sì, tu non ti preoccupare, lui, voltami poi vedi. Cioè, non è che mi conosciamo lui, vabbè, io sapevo qualcosa, gente che... Sì, la conosco, però no, mai ciao ciao, perché... Vabbè, lui, io, ciao, sapevo qualcosa, che stanno tutti. Vai, te ne andai, vai. Ma già, non si va, faccio prima. Che tu dia che ti vedi voto? No, però che si sì, sono sicuro che ti voto, io ti voglio con lui, che c'è l'altro? Che male è giusta. Ma lo so, amico, se per tanti voti come fa la terra? In base a quelli che lo votano, non risulta. Ma se sono in centro non lo votano, non ne manca uno, eh? Ma è una rotta, è una rotta. Che non ti può dire come fa tutto tu ti dire che lo voto se non lo voto, lui come fa sapere che ha votato e che non ha votato? E vabbè, lo vado direttamente e via. E dopo, ma sono in certa mattina, perché con i russi vogliono ripresi la realtà. E sempre a me di lui, l'ho fatto da cagare a me. Non scusi, non posso variare, quindi non so se tu cosa fare. All'Alta Nazionale. Vabbè, io di politica non ne comprendo nulla, però... Non me la fotti nuda, già tanto sono tutti che ti promettono, lavoro qua, lavoro là, ma poi cosa? E loro facciano pallone, boh. E noi ci siamo tra l'Alta Nazionale con cavoli acidi, e allora ti fanno le stabilità vero e controllano i dita a chi si fa il sistema raggiunto, lì si cazzo l'ordine è la prima cosa. Poi ma la mangia ce l'ha in teoria, mi muovo le mani in muovo, con i fascisti. No, dai, su tutto. Dai. Ah, sai. Oh. Spiegami una cosa, perché sono i telefoni tre? Quando fanno il numero del cellulare, dopo lo fanno... quando è zero, in corso, in casa. Non funziona. Quando fanno il numero in casa, lo tutti. Se può fare anche un'ora, non è bello, fa l'altro, perché non è. E loro non funziona, poi. Se la ieri che devo fare la cosa. Se la fanno a mamma, ha fatto il numero, ha fatto il numero. Ho fatto quasi più volte. Fai il punto lo scala naturalmente, tu vai a ricaricare, sei di sotto. Sì. Allora, perché il cavolo fanno il telefono in casa, non deve essere il non dovrebbe funzionare. Ma se corre sulla cosa che non capisci tu, ma qui se la devono riuscire a qualcuno. Tu fai la ricarica adesso, poi te ne rendi conto, sei sempre a 0,60 centesimi, la tua dico. Non serve a niente il tre, l'ho avuto io, no. Nulla, se vuol dire niente, no. Secondo me la migliore è la TIM, secondo me. È in vista dei baglieri, secondo me la migliore è la Omnitel, ma si piglia non mi arrugo. Invece l'altro, mamma mia, poi la fine in estate è la macella. Guarda, ti dico che, vabbè, a parte che non credo che, come dici tu, perché la TIM è collegata con la Telecom, con il settore della Telecom, perciò già da lì stai sbagliando. Comunque sia, la Vodafone, lo va a chiamare un operatore, praticamente il buono in mezz'ora, molte volte non ce la fa neanche a chiamare, invece la TIM fa il 119, aspetti due secondi che la fai fare e schiacci due volte a zero, levano zero e ti fanno fare subito con l'operatore, invece con la Vodafone è un casino niente. E tutti sono casino dagli operatori, si dà la migliore da vara, dimmi, io ce l'ho per due mille schede, però la TIM mi ha fatto sempre problemi qua. Capito? La salsa che dà problemi. Non mi vanno a Cagliari, a me non mi ha mai dato problemi, segnale sempre a malessa. Perciò io la SIM ce l'ho già 8 anni, prima avevo un altro numero ma avevo dato con la sera lì. E poi ho preso questo qua, è stato il cellulare nuovo con la scheda. No, ho pagato 300.000 lire, sono preso a Oristano, figurati. Io ce ne sono due in caso non prenda uno e affida l'altro. Capito? Cioè, o Vodafone e Tim. Io ne ho due Vodafone e due Tim. No, la Vodafone è perfetto, c'è di qua. Per me mi vuole Vodafone, dice che la mia nappalina. Ma io mi sono trovato male, a parte... con gli operatori, perché fa 190 però non si vuole rispettare, allora ci vuole la TIM, cioè da quello, fa il 719, aspetti un minuto, una volta che si parla la signorina, aspetti due volte lo zero, e ti fanno fare con l'operatore. Io comunque farò una cosa, adesso faccio passare un anno, poi mi faccio quella modifica, ma non faccio quella modifica. Ti dà 24 ore di tempo, se tu nell'arco delle 24 ore rifai la ricarica ti restituiscono pure l'euro che tu hai speso praticamente per fare l'SOS, te lo mettono nel bonus, questo lavoro poi non lo fa così, vedi. Ma comunque la cosa fa dai punti, ti regali, ti fatto di roba. Ma pure la TIM io le ho 1700 di punti, adesso fare la possibilità, faccio un po' di ricarica in modo che... accimono punti, ma quelli della team non stanno, non è lo scadenza, la Vodafone hanno la scadenza, 10 anni. Entro là. Dove c'è attimo no? Puoi aspettare anche di fare di viaggio, non c'è la scadenza. Non so perché sono in Italia, fanno di tutto per avere il contratto migliore, no? Per attivare di viaggio. Però sono cose che fa la figlia, non fa la ora, sono cose che non fa la ora, non fa la figlia. Ma cappa lappa. No, io la verità, la team mi trovo benissimo, senza problemi, ormai sono abituato alla team, no? Vodafone, ho avuto pure Wind, poi Vodafone, non mi manco, sono team. Guarda, la Vodafone già ti dà solo quando fai cose dei messaggi, quello già va bene, mentre la team sarà 400, presso tutti gli operatori, mentre la Vodafone te ne dà 100 ogni giorno, questo solo ai Vodafone, solo agli assicuratori. Non so, ti metterà 500 a tutti gli operatori. Invece, ma però ti danno di un punto. Sì, ma la stessa roba. Però mi dà la mia carica. Capito? Tu sei detto, se non la posso, non mi devi fare il telefono. Sì, vabbè, sei sempre sul di cui. Non lo so, però sono sul di colo, vero? Andare con la mia cosa, so cosa ha fatto, allora ha fatto un piano, ha fatto ricaricare il telefono, andava a finire, ci si dimostrava i tipi di telefonavano, lo ricaricava il telefono, lui mi fa telefono, e faceva la paratina, se aveva il telefono, lo ricaricava, la cassa che c'è in giro alla mese si faceva. A me che mi sono imbarcato qua alla chat, non ho mai telefonato, io chiamavo loro, poco ma chiamavo loro. Ma dove? Allora. Di Sardegna? No, di fuori, Milano, Roma, no, Roma no. Di Milano, di Udine, di insomma, sono tre parti. Spiegami come funziona la chat. Non puoi entrare tu che sei il treno, gli sono il treno non ce la fa entrare. Io c'ho anche un momento, non ti preoccupare. Ecco, se ti devi scrivere Reggie, staccato metti il tuo nome in attivo, fa di Gianni, che Gianni c'è già adesso, se metti il nome in attivo, e lo invia a un numero che c'è lì, perché sono due numeri, c'è il 48499 Team e Wind, invece il 4321444 è Vodafone, lo invii. Poi loro ti rispondono e dico benvenuto alla chat metà video, poi tu, ci sono 8 stanze, dove vuoi entrare per esempio, c'è GFC, grande fratello sì, no? E devi scrivere entra GFC, lo invii, sempre al 4321444, una volta tu ti vedi il tuo nick entrare, in verde, in blu mi sembra che sia, in verde, boh, non mi ricordo, scrivi il messaggio. Ciao a tutti, sono nuovo, chi mi fa compagnia, c'è qualche ragazzo dalla Sardegna per dire, no? E lo invii, e poi da lì inizia a chattare. Poi tu dopo una volta che non mandi più messaggi, dopo mezz'ora esci automaticamente. Se vuoi ricattare devi scrivere di nuovo, entra GFC. E sembra l'ultima la fregatura. Ma che cosa ti cosa? Cosa ti no, fai il messaggio normale come tu lo mandi a me. O lo mandi avanti amico tuo, amica tua, uguale, sì, sì, sì. No, è un numero privato già. Parlare di politica, non puoi offendere, vabbè, uno senza ombra di dubbio, e niente, devi solo, non devi dire parolacce, tipo, se puoi scrivere at, no, cazzo, quello non te lo fa passare, tu metti anche non te lo fa passare, e niente, su media video, pagina, io metto sempre 867, la pagina, 867, poi c'è 861 e pieno di sardi lì, ma li ho fatti tutti i sardi. Comunque